Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Il giorno che seguì quella notte insonne, avevo una gran voglia di vedere Rochester, ma al tempo stesso quel desiderio mi faceva paura. Volevo risentire la sua voce, ma temevo di incontrare i suoi occhi. Durante la prima parte della mattina mi aspettavo che si presentasse da un momento all'altro. Non era sua abitudine entrare nella stanza mentre ero impegnata con Adele, ma qualche volta ci faceva una breve visita e avevo l'impressione che quel giorno sarebbe comparso. «Tutto sommato il signor Rochester ha scelto la giornata giusta per il suo viaggio», disse la signora Fairfax. «Viaggio? È andata da qualche parte? Non sapevo che fosse partito. È uscito subito dopo colazione. È andato a Elise dal signor Ashton, 10 miglia dopo Millcote. Credo che siano una bella compagnia. Lord Ingram, Sir George Lynn, il colonnello Dente e altre persone. Pensa che tornerà stasera?» «No, e nemmeno domani, credo. È molto probabile che si fermi una settimana o anche di più. Quando tutta questa bella gente elegante si ritrova, si diverte tanto, sta così bene che non ha certo fretta di separarsi. Gli uomini, poi, sono particolarmente richiesti, sapete. E il signor Rochester è così brillante in società. Le signore, in particolare, lo adorano. Anche se il suo aspetto non è esattamente tale da renderlo irresistibile ai loro occhi. Ma immagino che le sue doti e le sue capacità, e forse anche la sua ricchezza e i suoi natali, compensino qualche piccolo difetto fisico. E ci sono anche delle signore a Elise. Ci sono la signora Ashton con le figlie, 3 signorine molto eleganti, e anche Blanche e Mary Ingram, 2 nobildonne bellissime, credo. Ho visto Blanche 6 o 7 anni fa, quando aveva 18 anni. Era venuta a una festa danzante che aveva organizzato il signor Rochester per Natale. Avreste dovuto vedere la sala da pranzo quel giorno, che dovizia di luci, di addobbi. Credo ci fosse 50 di invitati tra uomini e donne, tutti provenienti dalle migliori famiglie della contea. E la signorina Ingram era detta di tutti la più bella della festa. Avete detto che l'avete vista, signora Fairfax? Com'era? Sì, l'ho vista. Le porte della sala da pranzo erano spalancate, siccome era Natale, alla servitù fu permesso di raccogliersi nell'atrio per ascoltare le signore che cantavano e suonavano. Il signor Rochester mi invitò a entrare e io mi sedetti in un angolo tranquillo a guardarli. Non avevo mai visto uno spettacolo così splendido. Le donne erano vestite magnificamente e, almeno le più giovani, erano per lo più bellissime. Ma la signorina Ingram era senza dubbio la regina. E come era? Alta, esile di spalle e di petto, col collo lungo e aggraziato, la carnagione olivastra, scura ma luminosa, tratti nobili, gli occhi come quelli del signor Rochester, grandi, neri, scintillanti come i gioielli che portava. E poi aveva una splendida testa di capelli corvini, acconciati in modo squisito, una corona di grosse trecce dietro e sul davanti boccoli più lunghi e lustri che abbia mai visto. Era completamente vestita di bianco, con una sciarpa color ambra che le copriva le spalle e il petto, si annodava su un fianco e poi le scendeva con lunghe frange fin sotto il ginocchio. Aveva un fiore nei capelli, anche quello color ambra, un gran bel contrasto con la massa di riccioli neri. E naturalmente l'ammiravano tutti, vero? Oh sì, certo, e non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo gran talento. Era tra le signore che cantavano. Un ospite le accompagnava al piano. Lei e il signor Rochester cantarono un duetto. Il signor Rochester? Non sapevo che cantasse. Ha una bella voce di basso e un ottimo gusto musicale. E la signorina Ingram, che tipo di voce ha? una voce molto calda, potente, cantava meravigliosamente e ascoltarla era una delizia. Dopo aver cantato, suonò. Io non mi intendo di musica, ma il signor Rochester sì, e l'ho sentito dire che la sua esecuzione era davvero notevole. E questa donna, bellissima e piena di talento, non è sposata? No, a quanto pare. Immagino che né lei né la sorella abbiano una gran dote. Il patrimonio del vecchio Lord Ingram era per lo più inalienabile e ha ereditato quasi tutto il figlio maggiore. Mi stupisco che nessun ricco signore, nobile o no, si sia innamorato di lei. Il signor Rochester, per esempio. È ricco, no? Ah sì, ma c'è una bella differenza di età, vedete. Il signor Rochester ha quasi 40 anni, lei solo 25. E con questo? Succede tutti i giorni che persone con una differenza d'età anche più grande della loro si sposino. È vero, ma non credo proprio che il signor Rochester abbia in mente un'idea simile. Ma voi non mangiate niente. Non avete assaggiato quasi nulla da quando è stato servito il tè. No, ho troppa sete per mangiare. Posso prenderne un'altra tazza? Stavo per tornare sulla possibile unione tra il signor Rochester e la bella Blanche quando entrò Adele e a quel punto cambiamo discorso. Quando mi ritrovai di nuovo sola, ripensai alle informazioni che avevo raccolto. Guardai dentro il mio cuore, esaminai pensieri e sentimenti e con mano ferma cercai di ricondurre al buon senso quelli che si erano smarriti per le lande selvagge sconfinate dell'immaginazione. Chiamata davanti al mio tribunale, dopo che la memoria ebbe fornito le prove delle speranze, dei desideri, dei sentimenti che cullavo dalla notte precedente, e dopo che la ragione si fu fatta avanti per raccontare nel suo modo sobrio una storia semplice senza fronzoli in cui io rifiutavo la realtà, rimpinzandomi senza tregua di sogni, pronunciai il mio giudizio. Al mondo non era mai esistito un essere più sciocco di Jenner. Mai un imbecille par suo si era saziato a tal punto di dolci bugie ingoiando veleno come fosse nettare. «Proprio tu», dissi, «la prediletta di Rochester. Tu dovresti essere importante per lui in qualche modo. Ma via! La tua idiozia mi nausea. Trarre piacere da quei cenni di favori occasionali. Segnali equivoci rivolti da un gentiluomo di lignaggio, da un uomo di mondo a una dipendente inesperta. Ma come hai osato? Povera idiota che sei. E dunque ascolta, Jenner, la tua sentenza. Domani mattina mettiti davanti a uno specchio. Prendi un gessetto e fatti un ritratto fedele, senza attenuare un solo difetto. Non trascurare le linee più dure, non addolcire le irregolarità più vistose. E sotto scrivici: ritratto di istitutrice povera, scialba e sola al mondo. Dopodiché prendi una tavoletta d'avorio liscio. Ne hai una pronta nella tua cassetta da disegno. Prendi la tavolozza e mischia i colori più freschi, puri e luminosi. Scegli i pennelli di pelo di scoiattolo più delicati. Schizza con cura il viso più leggiadro che tu riesca a immaginare. Dipingilo con le tinte e le sfumature più dolci e soavi, quelle che ha descritto la signora Fairfax parlando di Blanche Ingram. Ricordati i boccoli corvini. Come? Vuoi ritrarre il signor Rochester? disciplina, niente piagnistei, niente sentimentalismi, niente rimpianti. Non ammetto che buonsenso e fermezza. Ripensa a quei tratti alteri e tuttavia armoniosi. L'eleganza greca del busto e del collo. Mostra la bellezza bagliante del braccio tornito e la finezza della mano. Non trascurare l'anello di brillanti né il bracciale d'oro. Ritrai fedelmente le vesti di pizzo impalpabile e lucido raso. La sciarpa elegante, la rosa dorata, intitola il quadro. Blanche, dama di rango, vaso di ogni perfezione. Passò una settimana e del signor Rochester non si ebbero notizie. Passarono 10 giorni e ancora non si faceva vivo. La signora Fairfax diceva che non si sarebbe stupita se Dailys fosse andato direttamente a Londra e di lì nel continente e se non si fosse fatto vedere a Thornfield per più di un anno. Non di rado era accaduto che se ne andasse in modo altrettanto brusco e imprevisto. A quelle parole sentii una strana morsa gelida al cuore e fui quasi sul punto di svenire. In realtà stavo permettendo a me stessa di provare il malessere della delusione. Ma facendo appello alla ragione e a tutti i miei principi, riuscii subito a dominarmi. E fu un miracolo come superai quella momentanea confusione, come rimediai all'errore di pensare che i movimenti del signor Rochester potessero essere di vitale interesse per me. E certo, non mi umiliai, non mi abbandonai al senso di inferiorità che può provare una serva, ma mi dissi semplicemente: «Tu non hai nulla a che fare col padrone di Thornfield se non per lo stipendio che ricevi da lui in qualità di istitutrice e il rispetto e la cortesia che egli ha per te. Se fai il tuo dovere ti sono dovuti. Sta certa che questo è l'unico legame che egli riconosce davvero tra voi due». Perciò non fare di lui l'oggetto dei tuoi sentimenti più delicati, dei tuoi sogni, dei tuoi struggimenti e così via. Egli non appartiene al tuo ambiente e tu resta nei confini stabiliti dal tuo ceto. Abbi rispetto per te stessa e non mettere l'anima, il cuore, le forze laddove questi doni non sono richiesti né apprezzati. Continuai dunque a dedicarmi alle mie faccende giornaliere in tutta tranquillità, ma di tanto in tanto mi passavano per la mente vaghe idee sull'opportunità di andarmene da Thornfield e senza volerlo cominciai a pensare ad annunci da pubblicare sul giornale e a riflettere su nuove sistemazioni e non ritenni necessario controllare questi pensieri che anzi potevano germogliare e dare i loro frutti. Rochester era assente da più di 15 giorni quando arrivò una lettera per la signora Fairfax. «È del padrone», disse lei guardando l'indirizzo del mittente. «Adesso sapremo, immagino, se dobbiamo aspettare il suo ritorno o no». E mentre rompeva il sigillo e leggeva la missiva, io continuai a sorseggiare il caffè. Stavamo facendo colazione. Era bollente e fu a questo che attribuì l'improvviso e violento rossore che mi salì alle gote. Perché mi tremasse la mano e perché rovesciassi metà del contenuto della tazza nel piattino, evitai di chiedermelo. «Immagino che il signor Rochester non si farà vedere per un pezzo, vero?» «Al contrario, arriva fra 3 giorni, dice. Questo significa giovedì prossimo e non sarà solo. Non so quanti degli ospiti dei Lys lo accompagnino, ma dice di preparare tutte le camere da letto migliori. E bisogna anche rassettare la biblioteca e i salotti. E devo trovare altro personale di cucina dal Georgin di Milcott o da qualunque altra parte. Le signore porteranno le loro cameriere, i signori i loro valletti, perciò avremo la casa piena». La signora Fairfax buttò giù il resto della colazione e scappò via per cominciare i preparativi. Arrivò infine giovedì. tutto il lavoro era stato completato la sera prima. I tappeti erano stesi a terra, i baldacchini sistemati, i copriletti immacolati dispiegati, i tavoli da toiletta preparati, i mobili lucidati, i fiori disposti nei vasi. Sia le camere, sia i saloni non sarebbero potuti essere più lustri e puliti. Anche l'atrio era tirato a lucido e la grande pendola intagliata. I gradini e il mancorrente della scala luccicavano come specchi. Nella sala da pranzo la credenza splendeva, carica di argenteria. Salotto e boudoir traboccavano di vasi, colmi di fiori esotici. Giunse il pomeriggio. La signora Fairfax indossò il suo miglior vestito di raso nero, i guanti e l'orologio d'oro. Poiché spettava a lei ricevere gli ospiti, condurre le signore nelle loro stanze, eccetera. «Si sta facendo tardi», disse la signora Fairfax entrando con un gran fruscio di gonne. «Meno male che ho ordinato di servire il pranzo un'ora dopo quella indicata dal signor Rochester, perché sono già le 6:00. Ho mandato John al cancello per vedere se è in arrivo qualcuno. Di lì si riesce a vedere molto lontano, in direzione di Millcote». Andò alla finestra. «Eccolo!» esclamò. «Allora, John, ci sono notizie?» «Stanno arrivando, signora», fu la risposta. «Saranno qui tra una decina di minuti». Adele si precipitò alla finestra. La seguì, avendo cura di starmene da parte, così da potermi nascondere dietro la tenda e vedere senza essere vista. I 10 minuti annunciati da John sembravano non finire mai, ma finalmente si udì il rumore delle ruote. 4 cavalieri risalirono il viale al galoppo e dietro di loro venivano 2 carrozze aperte. Dentro era tutto uno svolazzare di veli e piumi al vento. Dei cavalieri 2 erano i tanti giovanotti. Il terzo era il signor Rochester, sul suo cavallo nero, con Pilot che li precedeva a grandi balzi. Al suo fianco cavalcava una donna, ed erano loro 2 ad aprire il corteo. L'abito color porpora dell'amazzone sfiorava quasi il terreno. Il lungo velo ondeggiava al vento e tra le sue pieghe trasparenti occhieggiavano i folti e lucenti boccoli corvini. «La signorina Ingram!» esclamò la signora Fairfax e scese di corsa alla sua postazione. I cavalieri, seguendo la curva del viale, girarono ben presto intorno alla casa e io li persi di vista. Adele chiedeva con insistenza di scendere. Ma io la presi sulle ginocchia e le feci capire che non doveva in alcun modo arrischiarsi a comparire davanti alle signore né ora né mai, a meno di essere espressamente invitata, e che il signor Rochester si sarebbe molto adirato, eccetera, eccetera, eccetera. A queste parole, lacrime naturali scivolarono dai suoi occhi, ma vedendo che cominciavo ad adombrarmi, alla fine se le asciugò. «Ma non hai fame, Adele?» «Mais oui, mademoiselle, voilà, sans cousiser que nous n'avons pas mangé». «D'accordo, visto che adesso le signore sono nelle loro camere, scenderò a prenderti qualcosa da mangiare». E uscendo con cautela dal mio rifugio, presi una scala di servizio che portava direttamente in cucina. Lì fervevano le attività. La zuppa, il pesce erano nelle ultime fasi di preparazione e la cuoca era china sulle pignatte in uno stato mentale e fisico che minacciava la combustione spontanea. Seduti intorno al fuoco nella stanza della servitù c'erano 2 cocchieri e 3 camerieri personali dei signori invitati. Le cameriere invece dovevano essere di sopra con le loro signore. I domestici, a giornata, ingaggiati a Millcote, si affaccendavano qua e là. Ben presto le camere si aprirono lasciando uscire una dopo l'altra le belle inquiline. Tutte gaie e leggiadre illuminarono la penombra con lo splendore delle vesti. Per un attimo rimasero raggruppate sul lato opposto del ballatoio, conversando in tono sommesso e vivace, quindi scesero lievemente le scale, come una nebbia lucente rotola giù per una collina. La loro apparizione collettiva mi aveva lasciato un'impressione di nobile eleganza come non avevo mai ricevuto prima. Trovai Adele intenta a spiare dalla porta dello studio. «Che belle signore!» esclamò in inglese. «Come vorrei andare da loro! Pensate che il signor Rochester ci manderà a chiamare dopo cena?» «No, credo proprio di no. Il signor Rochester ha altro a cui pensare. Lascia stare le signore per questa sera, le vedrai domani magari».